Runtime Radio, la tua talk radio geek. Con un sorriso è tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, migliore. Ascoltare, consultarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta. Il grande reset. Il grande reset. Ah, belli di casa, buongiorno e bentornati qui al grande reset, come tutti i venerdì mattina alle ore 7, tutti, poi vabbè. Tocca vedere in questo caso, perlomeno per due venerdì di seguito, è successo, quindi insomma siete pronti per ascoltare questo ennesimo momento di delirio. Non so quanto durerà questa puntata perché l'ho pensata ma non l'ho scritta, non ci sono veramente messo, ho detto andiamo, vediamo che succede, proprio perché insomma poi alla fine tante volte le cose migliori possono uscire in questo modo. Però prima di iniziare, ovviamente come tutte le volte, vi ricordo intanto che potete ascoltarci su www.rantemradio.it ma anche rantemradio.com, che poi sono la stessa cosa. Potete interagire con noi su telegram.me/runtime oppure sempre su Telegram cercate Runtime Radio e trovate il nostro canale broadcast, dal quale potete ovviamente trovare tutti i riferimenti ai podcast che escono, quindi le varie puntate, alle iniziative o le news importanti che riguardano Runtime Radio. Non è un bot di quelli invadenti, però insomma diciamo che cerca di tenere informati tutti quanti, e forse il punto di informazione, fino a che non ci sarà il nuovo aggiornamento del sito, sarà il punto di informazione più diretto e più aggiornato appunto per quanto riguarda Runtime Radio. Sempre su runtimeradio.it.com trovate anche la nostra pagina che si chiama Sostienici, nella quale trovate ovviamente tutte le informazioni per poter fare una donazione PayPal o una donazione ricorrente con Patreon. Questo succede perché, come avete visto, quest'anno in maniera particolare stiamo proponendo tantissime novità. Già sono partite, arriveranno le seconde puntate a breve di tante di queste novità che abbiamo, di cui abbiamo parlato. E insomma, vabbè, serve un po' un supporto perché ultimamente sia le entrate dal punto di vista pubblicitario, ovviamente quando si esce dall'estate, che il contributo magari anche da parte degli amici di Runtime Radio è venuto un po' meno, e proprio perché stiamo lavorando a queste nuove iniziative servirebbe più supporto. Sapete che non è un obbligo, non costringiamo mai nessuno, però insomma se date una mano sarebbe un bene, perché comunque quelle che sono le novità che state trovando adesso poi in realtà non sono tutte, perché ancora dobbiamo lanciare nuovi progetti. Detto questo, io direi che brano e poi possiamo tranquillamente iniziare. Io non ho mai avuto simpatia per i CCCP, ovviamente anche quando ero ragazzo, poi dopo a posteriori, no, guardando un po' nel futuro, mi sono reso conto che evidentemente c'era questo istinto di intuizione nei confronti di quello che sarebbe successo dopo. Però in realtà bisogna anche riconoscere che come progetto musicale era sempre stato, è sempre stato molto interessante. Questi erano appunto i CCCP con Guerra e Pace, e questa canzone è un po' asdrubala, come tantissime altre canzoni dei CCCP, che però insomma poi alla fine dimostravano pure di avere coraggio e anche sperimentazione musicale, con cercando poi anche delle sonorità, no, diverse. Diciamo, al momento del ritornello che c'è quello attacco di chitarra, quel gioco di suoni sotto, no, che è molto particolare. Comunque ci aggancia in qualche maniera un po' a quello che è il tema di oggi, che è un tema che spesso, che ultimamente ci sta molto focalizzando, ovviamente. Infatti poi bisogna cercare di capire un po' quello che sta succedendo anche dentro di noi, no? Perché da una parte, per non dire, per non lasciare spazio alla rabbia in qualche maniera, o non dire cose che uno non vorrebbe dire in generale, abbiamo cercato, forse io, ma forse anche io, Walter, e magari a tanti altri in Runtime Radio, di evitare, anche con Michela, tante volte quando facevamo le puntate dei Disordinati Informati, dicevamo rimaniamo sul leggero, no? Cerchiamo, intanto salutiamo Magoslo e salutiamo anche Christian, che sto sicuro che mi ha detto che mi avrebbe ascoltato insomma durante il suo viaggio in pontina. Salutiamo anche Walter, che uno così c'è morto, cioè nel senso con la canzone dei cosi dei CCCP, se manco quelli ti stanno bene, Walter, cioè quelli. Comunque diciamo che al di là di questo, ci siamo ultimamente molto focalizzati sul tema per diverse ragioni. Uno, perché ovviamente l'argomento di Gaza, del genocidio, delle politiche di Israele e dell'immobilismo a livello internazionale sta diventando sempre più pressante, ci sta a cuore. E poi perché comunque tante volte ci siamo interrogati dentro di noi che se per alcuni analisti, filosofi, politici, artisti siamo già comunque in qualche maniera complici di un genocidio, abbiamo già le mani sporche di sangue dal punto di vista istituzionale, perché se non fa nulla l'America, se non fa nulla l'Europa, se non fa nulla l'Italia, comunque in qualche maniera quello che sta succedendo ci rende comunque complici, no? Perché in altre volte, in altre occasioni si è intervenuti subito facendo la morale. Ora adesso non ritorniamo poi, perché anche canali che seguo, che diciamo in linea di massima mantengono un grosso equilibrio da un certo punto di vista, e comunque continuano a fare un po' questo raffronto, no, tra quello che è quello che è successo con la Russia e quello che sta succedendo con Israele, no? Ricordiamo che la Russia il giorno dopo, due ore dopo l'attacco all'Ucraina, era fuori da tutto, era fuori dalle manifestazioni culturali, dalle manifestazioni sportive, blocchi dal punto di vista economico, non c'era proprio più possibilità di sopravvivere, i russi dovevano morire tutti. E ricordiamo che gli embarghi, quando sono veri e quando c'è una forte motivazione a livello internazionale, sono importanti, proprio perché in realtà sono in grado di poter far cambiare le cose. L'esempio fatto anche da diversi canali YouTube è proprio quello del Sudafrica, quando c'era l'apartheid, quando poi alla fine le Nazioni Unite, insieme ovviamente a tutte le nazioni che si sono coinvolte in questo tipo di operazione, hanno costretto a capitolare il governo bianco razzista che governava da tantissimo tempo, il governo degli immigrati ovviamente governava tantissimo tempo il Sudafrica, creando questa situazione di separazione netta sociale, politica e economica e dei diritti tra ovviamente i cittadini, la minoranza bianca e la grande maggioranza della cittadinanza nera. E questo proprio ha portato proprio il governo a dire purtroppo le sanzioni sono insostenibili, siamo costretti a cadere. E da lì non è caduto un governo, è capitolato un sistema, ha vinto una rivoluzione che ha portato poi ovviamente a una democraticizzazione del paese, Mandela, le elezioni e tutto quello che ne è conseguito dopo, nel bene e nel male, perché poi anche lì ovviamente è un po' come quando dopo 100 anni di democrazia, di dittatura, a un certo punto esplode questa nuova ristrutturazione democratica, spesso e volentieri poi alla fine si fanno casini, no? Anche nell'inesperienza, anche nella fretta, anche nella voglia poi alla fine di trasformare la propria nazione in un qualcosa di diverso, no? In qualcosa che dimostri realmente anche a livello internazionale che c'è il cambiamento, no? E parlando proprio di canali che seguo tanto, anche più o meno da una parte, più o meno dall'altra, più o meno equilibrati, diciamo che c'è il canale Gio Pizzi che come diceva Walter ieri, nei primi 3 minuti di video lui ha sintetizzato tutto quello che in realtà voleva dire, qual era il suo pensiero. Il problema è che poi il video va avanti in una eco di ridondanze, di ciclo, sembrava un loop poi alla fine, però ascoltandolo meglio mi sono reso conto che era un loop in crescendo, cioè non era un loop statico, e questo loop in crescendo che finisce poi con una bestemmia, cioè lui dice proprio porca madò che per una persona come Gio Pizzi, alla fine, che per quanto giovane, per quanto comunque a volte anche soffre c'ha sicuramente la conoscenza e la cultura, ma soffre magari dell'inesperienza, no? Del non aver visto, non aver vissuto, non aver attraversato comunque determinati periodi storici, come può essere magari nel caso mio, di Walter o di tante persone magari un po' più grandi, quando abbiamo visto cosa succedeva, abbiamo visto gli attentati di matrice palestinese all'aeroporto di Roma. Così come magari abbiamo visto il sequestro di navi, attentati, rapimenti e via dicendo. E allora, nonostante tutto, nonostante l'indignazione, la rabbia, c'era comunque l'equilibrio di capire che quando si arriva a azioni estreme c'è sempre un motivo estremo dietro, no? Comunque in qualche maniera, che non giustifica mai. Non serve mai per giustificare, ma serve per spiegare che c'è un problema che qualcuno in qualche modo deve affrontare. E probabilmente negli anni Ottanta in qualche maniera questo problema era stato anche affrontato e anche seriamente, ma poi ovviamente ci si è scontrati con la dura realtà, che è una realtà non soltanto politica basata su un debito storico che magari l'Europa pensa di avere nei confronti del popolo israeliano, che potremmo star a discutere tantissimo su questo, ma in realtà poi nasce da una questione proprio strettamente politica ed economica, appunto, che è quella di tutte quelle organizzazioni politiche che vivono in America e in Europa, che pur non partecipando direttamente alla vita politica dei vari paesi, raccolgono miliardi di dollari e di euro finanziando praticamente ogni corrente politica da destra a sinistra, ogni politico di ogni schieramento, ed è motivo per cui anche se c'è una destra e una sinistra in America, vabbè, chiamiamole, diciamo, un'area più conservatrice, un'area dovrebbe essere un po' più progressista, ma poi in realtà abbiamo visto che, insomma, in America i due partiti istituzionali hanno veramente molto, molto poco di distanza, no? Sono quasi indistinguibili, come dice il buon William Shatner, che salutiamo, sappiamo ricoverato, quindi attenzione ragazzi, siamo tutti in preallerta 24H, abbiamo la reperibilità, quindi insomma attenzione a quello che succede. Vabbè, comunque questo non c'entra niente, perché stavo facendo un discorso serio. Alla fine tu non troverai mai nella Camera americana qualcuno che prenderà una posizione contro Israele, né da una parte né dall'altra, e questa cosa è quella che sta succedendo anche in Europa. Ma poi in realtà non è soltanto questo, cioè questo flusso di raccolta di miliardi che vanno a finire nelle tasche dei politici, e quindi questo condizionamento importante da parte delle organizzazioni politiche israeliane ebraiche nei confronti ovviamente della politica, ma è un discorso che nasce a monte, no? Sulla costruzione di una propaganda e sulla costruzione ovviamente di un, come possiamo dire, di un una narrazione che serve per portare ad un fine, no? È stato un lavoro lento, meticoloso, strutturato, a tratti anche raffinato. Oggi non c'è più questa raffinatezza perché non si preoccupano più di questo aspetto, in quanto ovviamente la gente si è talmente disabituata a qualsiasi tipo di struttura critica che vedono il video su YouTube dell'esercito israeliano che porta da mangiare ai palestinesi che li ringraziano ballando e non si pongono il problema, ma sarà un po' una stronzata sta cosa, no? Però ecco, questa costruzione che si è trasformata negli anni e che c'è sempre stata ci ha portato anche a fare poi delle considerazioni a posteriori. Alcuni di noi le facevano già tanto tempo fa, magari comunque qualche domanda se la facevano, altri in realtà magari non ci hanno pensato e oggi riguardano determinate cose, determinati messaggi, determinate comunicazioni, un certo tipo di linguaggio in maniera diversa. E dopo vi voglio fare proprio un esempio preciso. Questi erano Corveleno insieme a Tre Allegri Ragazzi Morti, Non Serve Mica Aver Fatto la Guerra, un brano interessante che rientra un po' nello stile, quasi un po' ci richiama a noi di Falce e Macello. Anzi, andate su falceemacello.it, falceemacello senza lei ovviamente.it, e trovate il primo brano. Presto troverete anche il secondo brano di questo nostro progetto musicale. E in qualche maniera vogliamo cercare di comunicare anche questo. Intanto salutiamo anche Domenico, Christian, che piano piano insomma si stanno unendo. Immagino c'è anche Michela di là che sta ascoltando in sala preproduzione che praticamente insomma l'ho vista prima che gironzolava e combatteva con i gatti. Mi voglio soffermare un secondo su un film che abbiamo visto sicuramente tutti, che tutti ci ha commosso e tutti comunque in qualche maniera abbiamo fatto prima e dopo delle considerazioni importanti, che è Schindler's List. Schindler's List è stato un film in qualche maniera in un'epoca dove comunque capitava insomma di trovare film sulle deportazioni, sui campi di concentramento nazista nei confronti degli ebrei. È stato un film importante perché in qualche maniera di tutto il messaggio che raccontavano anche tutti gli altri film ci ha messo un lavoro di preparazione, di tecnica importante dietro, quella tecnica studiata proprio apposta per arrivare anche dal punto di vista della comunicazione visiva a determinati istinti anche, no, dello spettatore. E basta anche pensare alla scelta del bianco e nero, molto bello, una fotografia tra l'altro una fotografia discreta perché apparentemente quasi sembra un film neorealista italiano, no? Dall'altra parte invece in realtà ti rendi conto che c'è una costruzione, c'è tanta preparazione, c'è tanta estetica e soprattutto c'è anche tecnologia dietro a quello che è stato il lavoro fatto dietro Schindler's List. E questo bianco e nero che in qualche maniera rendeva anche più crude determinate situazioni, più perché forse le assimilavi diciamo a quelle pochissime immagini storiche che magari ti è capitato di aver visto, qualche filmato ripreso ovviamente magari dalle SS durante quella che era l'opera di documentazione rispetto a quello che erano i campi di concentramento, o addirittura i filmati degli americani o dei russi che sono entrati con l'esercito ma anche con le cineprese dentro Auschwitz, dove Auschwitz e tanti altri campi di concentramento, dove ovviamente l'immagine che ne è uscita fuori è di questo esercito di disgraziati, di zombie quasi, di persone pelle e ossa, disperate, che forse avevano quelli che erano sopravvissuti magari non erano sopravvissuti psicologicamente, diciamo tutto il dramma del contesto, della contestualizzazione ovviamente era portato in maniera quasi realistica, ma poi in realtà ti rendi conto che c'era appunto anche tanta costruzione. Questo non è in senso negativo ovviamente, perché il film allora ci ha colpito tutti, ci ha colpito proprio anche per quel suo percorso, quel suo viaggio. E perché mi soffermo tanto su Schindler's List rispetto a tanti altri, no? Perché c'è la famosa scena che oggi magari tanti tendono ad averne dimenticato, ma che allora fu il guarda, cioè nel senso che poi era proprio la forse la cosa più smaccata, anche più esposta, più banale anche da un certo punto di vista, che era quello della bambina col cappotto rosso, no? Che era questo elemento che già dall'inizio del film ti voleva portare ad arrivare a quel punto, no? Quindi il cappotto rosso era l'unico elemento colorato all'interno di un contesto che era completamente in bianco e nero, fino a che a un certo punto, quasi a voler dire ah, te l'ho buttata lì, chissà se te ne accorgi, ma in realtà ovviamente era tutto molto in primo piano, c'era questo carretto ovviamente con tutti i cadaveri e in mezzo ai cadaveri si vedeva questa strisciolina rossa, no? questo cappotto che faceva ovviamente capire che anche la bambina era morta, insomma, no? E questo mi è rivenuto in mente proprio ultimamente, no? Perché ovviamente il film, se non erro, era di Spielberg, ebreo, da parte di una Hollywood cinematografica con una grossa spinta finanziaria ebraica, con tante produzioni e produttori e registi ebrei che comunque hanno portato avanti un certo tipo di racconto, come anche il normalizzare la storia di Simon Wiesenthal, che io vi ho parlato tantissime volte, cioè oggi, allora, diciamo, si vedeva la fondazione di Simon Wiesenthal come una sorta di fondazione della memoria e del ricordo da parte di un eroe, no? In qualche maniera. Ma in realtà Simon Wiesenthal, come tantissimi altri personaggi dell'epoca, erano semplicemente dei cacciatori di nazisti, facevano parte di quella schiera di assassini giustificati che se andavano in giro e trovavano i nazisti, li ammazzavano, tutti gli dicevano bravo, bravo, bravo. Questa cosa, tra l'altro, mi ha innescato recentemente un telefilm che stavo vedendo con Michela, che raccontava proprio questo, cioè raccontava di questa società segreta negli Stati Uniti che praticamente reclutava persone che avevano fatto parte, ovviamente c'erano magari le famiglie che venivano, avevano comunque un parente, erano discendenti, insomma, di persone che erano state nei campi di concentramento, che addirittura erano morti nei campi di concentramento. E questa serie televisiva, ovviamente, anche nel passato delle persone di cui racconta ovviamente la storia, c'erano comunque questi episodi, questi soprusi, la nonna che veniva picchiata perché era ebrea e tutta una serie di determinate cose che sono sicuramente successe e purtroppo succedono, però il problema è che poi alla fine costruire determinate storie e far empatizzare, diciamo, il pubblico verso quello che in realtà non è nient'altro che un assassino che va in giro a ammazzare persone, per quanto sia potente la motivazione che lo possa spingere, allora dobbiamo giustificare tutto. Allora va bene anche gli squadristi, vanno bene pure le ronde della Lega, va bene qualsiasi cosa, ognuno si può fare tranquillamente giustizia, perché anche io ho subito un torto nella mia vita e quindi devo andare a picchiare tutte le persone che hanno fatto parte delle generazioni dopo, delle persone che mi hanno fatto un torto. Comunque, perché il discorso della bambina ovviamente riporta un po' a quello che sta succedendo ultimamente, no? Cioè, noi ci rendiamo conto che questa situazione, anche del dibattito politico, non ha veramente senso. Su questa cosa io sono d'accordo con Iacchetti. Ricordiamo Iacchetti, quando è iniziato tutta questa barbarie nei confronti di Gaza, è stato l'unico, non è stato il primo, è stato l'unico per un periodo di tempo a scagliarsi contro questa cosa, ma piuttosto che scagliarsi soltanto contro questa cosa, quindi contro quello che era in atto, ossia uno sterminio, un genocidio da parte degli israeliani nei confronti dei palestinesi, che è una vera e propria pulizia etnica, chiamiamo le cose con il termine che utilizzavamo quando c'è stata la guerra in ex Jugoslavia, quando parlavamo dei serbi che facevano pulizia etnica verso le popolazioni islamiche, o verso gli albanesi, o verso i i croati e via dicendo. Chiamiamole con i termini che una volta avevamo il coraggio di utilizzare tranquillamente perché avevano il loro valore e la loro importanza. Questa è una vera e propria pulizia etnica, no? Quindi lui non si è soltanto scagliato contro quello, si è scagliato contro gli artisti, contro le persone influenti, contro tutti quelli che fino a 15 anni, 20 anni prima facevano i concerti, riempivano le piazze con la gente, con le bandiere palestinesi, a gridare o a cantare contro Israele o a favore ovviamente della Palestina libera, di uno Stato palestinese, no? Quindi questa cosa, tra l'altro, cioè, ridicola, no? Per quanto possa essere, Iacchetti alla fine si è trovato ad affrontare un tema e ha reagito esattamente come avrei reagito io, perché io mi sono detto, io avrei mai potuto partecipare a questi finti salotti dove intervisti persone di origine ebraica o direttamente ebraica o israeliani, come addirittura successe con l'ex diplomatico israeliano a Roma, l'ex ambasciatore, che disse ogni persona che mette che solo minaccia un israeliano in tutto il resto del mondo merita di morire, e noi questa cosa l'abbiamo normalizzata perché ci siamo resi conto che dietro c'è una preparazione generazionale, c'è un fanatismo costruito generazionalmente talmente importante, talmente alto, che ovviamente non c'è discussione. Quindi io non avrei mai potuto partecipare a una cosa del genere senza alzarmi in piedi e cominciare a bestemmiare, a insultare chiunque, senza né se e né ma. E la stessa cosa ha fatto Iacchetti, nell'alto della sua età, che ovviamente non c'ha più niente da perdere, che se ne fotte il cazzo di quello che succede, ha sbroccato contro queste persone che dicono cose assurde e inenarrabili solo perché sono giustificati in quanto loro sono ebrei, e se tu gli dici qualche cosa sei antisemita o sei fascista. E lì non ci ha visto, ovviamente, e stava per alzarsi e scendere al piano di sotto, perché lui tanto sapeva dove stava. Insomma, l'abbiamo vista tutti un po' questa cosa, no? E al di là di questo, che è chiaramente allucinante, no? Da un certo punto di vista, ci rendiamo appunto conto che parlare con queste persone dove vedono, vedi, la stessa cosa, un po' la discussione che c'è stata, non discussione perché poi non c'è stata, no? Però Daniele Borghi ha preso una frase detta da Andrew, che salutiamo, salutiamo tutti quelli che stanno ovviamente ascoltando, e ha detto: beh, allora Hamas adesso mosso i buoni. Ma nessuno ha detto mai una cosa del genere. Ma uno, non c'entra niente, e due, non è una polarizzazione se buono tu so cattivo io, perché a volte si può essere cattivi tutti e a volte si può essere cattivi nessuno. In generale, ovviamente, qui ci rendiamo conto che dietro ci sono degli interessi che vanno oltre, no? E quindi quando tu vai in televisione e dici, cerchi di spiegare che ragazzi, qui non sta a morire la gente di Hamas, ma stanno a morire donne e bambini, e ti trovi uno che ti dice definisci bambino, ti rendi conto che oramai non c'è più il limite, non c'è più nessun freno a questa cosa, perché hanno totalmente il controllo di quello che vogliono e possono dire senza che nessuno abbia il coraggio di indignarsi. Non è che dico, oh, ragazzi, ma uno che dice una cosa del genere, tutti quelli che stanno dentro lo studio lo devono corcate botte davanti a tutti in diretta. Basta con sto buonismo, sti poveri ebrei che stanno lì, no? Perché è come Ronne Piperno. Io lo dico sempre: l'immagine che ci hanno costruito per 70 anni era l'immagine da Ronne Piperno, cioè quell'onesto che sta lì e tutti lo trattano male, e lui, poverino, c'ha ragione. Via dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Vabbè, Fabrizio André, non potevo non metterlo, ragazzi. Io direi che poi alla fine il discorso è che, come su tante mille altre cose, qui non è una questione di pensiero politico, non è il fatto di vederla in un modo, essere di sinistra, essere di destra, essere cristiani, essere musulmani. Qui il problema è che per 50 anni della nostra vita storica, politica, dopo il post-guerra, abbiamo cercato di costruire un mondo che fosse più unificato e globalizzato da un certo punto di vista, e dove le culture si incontrassero anche in qualche maniera, con delle difficoltà sicuramente, perché poi ci sono quelle differenze importanti, ma a volte si sono anche trovate delle soluzioni, poi a volte si è un po' lasciato perdere e correre le cose, perché poi alla fine bisognava fare l'integrazione a tutti i costi e tutta una serie di determinate cose. Però diciamo che vedere quello che sta vicino a te non come uno diverso o come un nemico, ma vederlo come un'opportunità, come una possibilità, e capire che qui poi alla fine, al di là delle idee politiche, c'è un qualcosa che va oltre, c'è un fanatismo storico, c'è un fanatismo politico, c'è un fanatismo religioso che prescinde, perché se noi ce la prendiamo con gli islamici, ce la prendiamo con l'ISIS, ce la prendiamo con i talebani perché hanno quel tipo di visione, ce la dobbiamo prendere anche con gli israeliani e tutto quel fanatismo religioso, anche cristiano, che c'è nel nostro paese in delle sacche importanti di conservazione, dove poi alla fine pare che l'associazione della parola Dio con la parola violenza sia quasi un fattore culturale, cosa che è chiaramente un'aberrazione. Spero che sia un'aberrazione. Io non sono un credente, non sono un religioso, non me ne può fregare di meno. Per me Dio non esiste, e se esistesse li traparerebbe tutti dal culo, tutta sta gente in generale, proprio perché purtroppo non esiste. Ma se esistesse, comunque direbbe: tu a nome mio tutta sta puttanata non la puoi fare, non te puoi permettere. E questo è un po' il discorso che cerco di fare, che quando muoiono dei bambini, muoiono delle donne incinta, muoiono dei ragazzi, è morta una generazione, parliamo di oltre 50.000 persone, e i dati non sono... Voi mi state dicendo che anche se uno di questi ci ha avuto simpatie per Hamas, allora meritava di morire? Oppure stiamo parlando di persone che avevano tutti quanti il Kalashnikov dentro la saccoccia, i ragazzini se li mettevano nello zaino da scuola? Cioè, stiamo dicendo questo? Fatemi capire che cosa stiamo dicendo, perché poi dopo alla fine, quando noi ci rendiamo conto che associazioni politiche importanti, gruppi di associazioni politiche importanti israeliane, ebraiche, influenzano pagando miliardi di dollari tutti i politici da tutte le posizioni, da destra a sinistra, sia negli Stati Uniti che in Europa, ci rendiamo conto che questa guerra non ha soluzione, non c'è una soluzione. Ma non è soltanto questo, perché non è una guerra. E il problema è che se noi diciamo che vabbè, va bene quello che dice la Meloni, ma non è la Meloni che a me mi fa schifo, ma potrebbe anche essere stato Conte, potrebbe essere stato chiunque altro, ti rendi conto che non c'è una motivazione politica dietro, non c'è un ragionamento, non c'è un pensiero, ma c'è la necessità disperata di difendere qualche cosa che non potete assolutamente fare altro che difendere come politici. E questa cosa fa schifo. Ma questo io lo dico anche nei confronti della sinistra in Italia. Cioè, abbiamo più una sinistra istituzionale, qualcuno che dice basta, creiamo il dissenso. C'è la Schlein che ogni tanto dice ma tu parli con Netanyahu, che schifo. E questa è la politica è un'altra roba, raga. La politica sono milioni di persone che in tutto il mondo sono scese in piazza perché si è creato veramente uno scollamento tra Stato civile, tra società civile e politica, e la politica è morta, e più continua a far così e più sarà peggio. E se le prossime elezioni saliranno in generale in tutto il resto d'Europa in merdaioli più oltransisti e radicali e estremisti possibili e immaginabili, sarà colpa anche di questi. Ma al di là di tutto, io direi che a un certo punto, se hai quel minimo di coscienza, indipendentemente dal fatto che non sei di una certa corrente politica, devi scendere in piazza e devi dire che sta roba è una merda, e lo devi dire a prescindere, e non ti devi vergognare, e ce la devi avere con Israele. Non Israele, gli israeliani in senso assoluto, perché poi dopo ricominciano a dire ah sei un antisemita, ma contro questa politica, uno Stato che è uno Stato criminale, lo Stato attuale. E non lo dico io, non lo dicono i comunisti, lo dice l'ONU, lo dicono le organizzazioni internazionali, lo dicono tutte quelle realtà di analisi politica che non sono gli Stati Uniti d'America. E vedete che noi abbiamo un diplomatico italiano che è costretto a subire i diktat degli Stati Uniti anche in territorio nazionale. E dove sta la patriottica Meloni a difendere una persona che non ha più la possibilità di aprirsi un conto corrente perché gli americani non vogliono? Di che cazzo state a parlare? A me mi dovete dire tutto quello che vi pare, qualsiasi idea ci avete. però poi non dovete dire stronzate, perché io sono nato nel 72 e l'ho vista l'evoluzione di questo mondo, l'ho visto come dagli anni 80 agli anni 2020 questo mondo è diventato una merda per colpa della cancellazione della politica a favore degli interessi finanziari, e gli interessi finanziari portano persone psicopatiche che stanno a governare i vari paesi senza nessun tipo di empatia nei confronti del mondo, e questo è un dato di fatto. Non me potete dire assolutamente il contrario. Detto questo, spero che siate stati bene. Spero, insomma, che questa puntata in qualche maniera vi abbia detto qualcosa, vi abbia fatto riflettere. Ripeto, indipendentemente da quello che pensate, se pensate qualcosa di diverso contro il fatto che tutta questa roba è una merda, ci avete qualche problema, secondo me. Non vi offendete, però, oppure offendetevi, fate quello che cazzo vi pare. Detto questo, per me ragazzi oggi è tutto, vi ricordo rantimeradio.it e rantimeradio.com, vi ricordo dirette Rantime su Telegram per interagire con noi in qualsiasi momento della giornata, vi ricordo anche che potete tranquillamente andare sui nostri siti e cliccare su Sostienici, dove trovate la connessione a PayPal se volete fare una donazione unica, oppure a Patreon se volete fare una connessione, delle donazioni continuative. Stiamo facendo uscire tantissimi nuovi progetti, ne è uscito proprio uno ieri e l'altro ieri, abbiamo fatto uscire roba di tecnologia, roba di narrativa, diari insomma sulla televisione e altre cose stanno per uscire, nuovi progetti stanno per arrivare, quindi voi capite che questo grande investimento che stiamo facendo in questa stagione, che dopo tanti anni sta portando tantissimi nuovi podcast, c'ha un suo costo da un certo punto di vista, e quindi sarebbe il caso, se volete dare una mano, di darla questa mano, insomma, a Rantime Radio, che comunque volete o non volete sta sempre qua e cerca di farvi compagnia e cerca di farvi riflettere e soprattutto di intrattenervi, così come succede da 15 anni dopo decine e decine di migliaia di ore di intrattenimento e anche dell'affetto che voi avete restituito a questo progetto. Quello che stiamo facendo sta portando anche a investimenti economici, quindi supportate il nostro progetto e non ci abbandonate mai. Forza Rantime Radio, forza a tutti voi. Ciao. Ogni venerdì mattina svegliarsi con un sorriso è tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi. Il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con mente aperta e cuore. Rantime Radio, la voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore,